Allora, venerdì 13 marzo 2020, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per quest'oggi, seppure in forma, come dire, un po' complicata dalle ovvie vicende che ci interessano tutte e tutti, e con delle modalità anche un pochino diverse rispetto al solito, ma insomma noi cerchiamo di andare avanti. Come al solito andiamo a cominciare dando i contatti della radio, o quelli telematici, perché sono quelli che funzionano al momento, ovvero sia il nostro sito www.ondarossa.info e poi la posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Noi, prima di cominciare, ovviamente ringraziamo ancora una volta tantissimo chi ha sottoscritto e sta continuando a sottoscrivere il radioabbonamento di Radio Onda Rossa, in particolare negli ultimi giorni, diciamo, nonostante le complessità del caso. Radioabbonamento che continua ad andare avanti ed è assolutamente fondamentale per la sopravvivenza di questa radio. Si può fare il radioabbonamento, lo sapete, attraverso il nostro sito da ondarossa.info, poi si può cliccare sulla pagina del radioabbonamento, oppure si può utilizzare il buon vecchio conto corrente postale 6180 4001, intestando poi le vostre sottoscrizioni a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185, Roma. Chiaramente in questo momento non è possibile fare il radioabbonamento in diretta di persona, come abbiamo sempre invitato, diciamo, prima dell'emergenza. Allora, andiamo a cominciare con la nostra rassegna stampa mattutina e prima di tutto andiamo a vedere che cosa dicono le prime pagine dei principali quotidiani di oggi, quali sono temi, toni e titoli. Facile dire di che ci si occupa, ovviamente il coronavirus. Quali sono le novità della giornata? Le novità della giornata sono sostanzialmente il fallimento ieri delle misure prese o non prese, forse sarebbe meglio dire, dalla Banca Centrale Europea, che hanno poi provocato l'affossamento delle borse, Milano in primis, ma tutte le altre in secundis. E le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, molto molto dure nei confronti dell'Unione Europea e nei confronti anche nei fatti della Banca Centrale, insomma, dichiarazioni che fanno riflettere, considerando da chi vengono, insomma, dalla carica istituzionale, la Presidenza della Repubblica, ma anche da un personaggio come Mattarella, che invece nel corso dei mesi, degli anni, si è sempre distinto per un approccio molto, diciamo, costruttivo e amichevole nei confronti delle istituzioni europee. Che anche lui, diciamo, arrivi a sostanzialmente a sbottare, dice lunga sull'inadeguatezza in questo momento delle misure e delle prese di posizione dell'Unione Europea. Questo è un punto. C'è il punto relativo all'andamento del virus e all'andamento delle misure prese. Sostanzialmente, che cosa si dice sui giornali? Si dice di tenere duro, l'Italia è in quarantena pesante. Non siamo ai livelli di Wuhan, perché lì è tutt'altro tipo di ambiente politico, culturale, sociale, ma insomma ci avviciniamo molto, insomma. Nelle prossime ore probabilmente si andrà a bloccare, considerate nella nostra città, anche il trasporto pubblico locale, e questo significa una sola cosa: che si sta chiusi in casa, cioè, al più si esce, si va a fare una passeggiatina sotto casa. In attesa, dicono oggi diversi studiosi seri sui giornali, che per aprile, se si tiene duro, perché bisogna tenere duro, però insomma per aprile si dovrebbe arrivare, diciamo, all'inizio della parabola discendente. E questo per l'Italia, perché poi, ed è il terzo punto principale di oggi, c'è quello che accade fuori dall'Italia. Se la Cina, la Corea del Sud e l'Italia, insomma, si stanno trovando a reagire in maniera anche piuttosto radicale, e altrove invece la situazione non è questa. Fa veramente un'enorme impressione vedere come i più importanti paesi d'Europa, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, insomma, siano sostanzialmente inani di fronte al virus, fra chi alza le spalle e dice vabbè, in fondo non sarà tutto questo granché, e chi ironizza sull'Italia, chi, come succede oltreoceano con Trump, dà tutta la colpa agli stranieri e chiude lo spazio aereo. Ma insomma, l'impressione è che ci si sta avviando veramente a grandissima velocità a un disastro planetario di cui dovranno rendere conto molti governanti. Comunque, detto questo, possiamo andare a cominciare la lettura delle prime pagine. La prima pagina che abbiamo sotto mano è quella del manifesto. La fotonotizia principale ritrae un lavoratore dell'ArcelorMittal, quindi immaginiamo di Taranto, ripreso di spalle, in tuta e caschetto, e il titolo è Reazioni a catena. Da nord a sud, paura e rabbia degli operai dopo la decisione del governo di non fermare la produzione nelle fabbriche. Scioperi spontanei per la sicurezza, Confindustria sotto accusa, Conte convoca i sindacati, mentre il numero dei morti per coronavirus in Italia tocca quota 1000. E poi in taglio alto, la BCE affonda la borsa in due mosse, misure inadeguate e gaffe di Christine Lagarde. Mattarella, la Lagarde ha detto: non è nei miei piani passare alla storia per un whatever it takes numero 2. Useremo la flessibilità, ma non siamo qui per ridurre gli spread. Diciamo, se lo poteva risparmiare lei e ovviamente tutta una certa classe dirigente continentale. Parole, scrive il manifesto, che hanno provocato una levata di scudi bipartisan, ma soprattutto l'inedito intervento di Mattarella, che non è uso a interventi di questo tipo. L'Italia si attende a buon diritto, quantomeno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione. Guardate che è un passaggio politico molto molto importante questo. E poi su quello che è stato effettivamente organizzato dalla Banca Centrale Europea interviene Luigi Pandolfi, borse a precipizio, il cannoncino di Lagarde spara acqua. E ancora c'è Donald Trump che ordina il blocco dei voli dall'Europa, è un virus straniero, ha detto Trump, e ci sarebbe mancato altro. Anche lì, diciamo, una situazione che sta prendendo delle pieghe davvero davvero drammatiche. L'Unione è, la cosa divertente è che sono bloccati i voli dall'Unione Europea propriamente detta, dall'area Schengen, ma non dal Regno Unito, perché appunto il virus ha il passaporto. L'Unione Europea protesta, ma lo fa ancora senza prendere misure comuni, non avevamo dubbi. E poi i commenti, che sono Tommaso Di Francesco e Gregorio Piccin, che scrivono Defender Europe 20, le manovre NATO sabotate dalla pandemia. Si parla di questa grande esercitazione che avrebbe dovuto aver luogo da marzo a maggio, con 30.000 militari statunitensi e 7.000 soldati degli altri paesi NATO. È stata molto ridotta, sarebbe, come dire, pacifico che si eliminasse, ma ecco, sappiamo con chi abbiamo a che fare. Quindi Monio Vadia, che scrive la classe operaia all'epoca del coronavirus, molto interessante. E poi Piero bevi l'acqua, epidemia e non solo, eventi universali e malattia degli stati nazione. E questa è la prima pagina del manifesto. Poi passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, ovviamente quotidiano particolarmente interessante oggi e di fronte a quanto avvenuto nella giornata di ieri. Allora, titolo quasi a 9 colonne, le borse affondano, lo spread vola a 253, gaffa della Lagarde, Mattarella reagisce. Non siamo qui per ridurre gli spread, frase sciocca per i mercati del capo della Banca Centrale Europea. Cioè, fra l'altro, diciamo, ma è proprio banale, bassa intelligenza evitare una dichiarazione del genere in una situazione del genere. Non è che ci vuole una laurea ad Harvard o a Yale per capire che se sei se sei a capo della banca centrale e dici una cosa del genere, le borse crollano proprio immediatamente, visto che questo è quello che interessa, insomma, o interessa molto. Vabbè. E il Colle dice dalla BCE serve solidarietà, poi una volta fatta la frittata la Lagarde cerca di rimettere un po' i gocci, a posto, per l'Italia ci saremo, che vuol dire allora, per l'Italia ci saremo e per gli altri no, anche perché poi adesso arrivano tutti gli altri e sarà un bel vedere. Bene, la correzione, dice Gualtieri, intanto Milano fa meno 17%, Wall Street fa meno 10%, allarme liquidità negli USA. E poi anche qui, diciamo, in questo tentativo di un po' rimettere insieme i gocci, un po' diciamo far andare la banca centrale in una certa direzione, tutti remano in una certa direzione, c'è Donato Masciandaro che scrive scelte giuste, parole sbagliate. Vabbè. Passiamo anche questa. Quindi, e che cos'altro? Per autonomi e professionisti arriva la sospensione selettiva di IRPEF e IVA, l'Agenzia delle Entrate, scusate, e la Guardia di Finanza, intanto, ancor prima che glielo chiedesse il governo, gliel'avrebbe chiesto, immaginabile, hanno sospeso le attività legate a verifiche e controlli, anche se non tutto è destinato a fermarsi. Nota il Sole, e bisogna creare un vero fondo anticrisi, si legge in un commento firmato dal economista Lucrezia Reichlin. Quindi, sempre su questi temi, sicurezza, scioperi spontanei al nord, Conte convoca sindacati e imprese, approvvigionamenti a rischio se si chiude il sistema industriale, dice la CSC. E poi si va verso la sospensione del patto di stabilità, almeno questo. Ovviamente la Commissione europea approverà oggi una comunicazione all'Eurogruppo in programma lunedì in cui si prende atto che esistono le condizioni eccezionali previste per una sostanziale sospensione delle regole sul deficit previsto dal patto di stabilità. Infine, sulla diciamo sul virus in senso stretto, via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ok alla sperimentazione del farmaco per l'artrite che dovrebbe, diciamo, essere impiegato anche contro il coronavirus, ma lo fa il giornale all'interno, lo facciamo anche noi, diciamo. Tutte queste ricerche spasmodiche, perché poi sono anche, ci sarebbero dietro affari miliardari, non porteranno a una a un farmaco, a un vaccino prima di diversi mesi, per cui nel frattempo c'è un'unica soluzione ed è quella di tirare dritto e tenere duro, ecco, mettiamola così. Avvenire, arriva l'ora di fermarsi, questo è il titolo, non la manda a dire Avvenire. L'Italia si adegua ai divieti, città deserte, superati 1000 decessi, 1258 i guariti, Mattarella, ci aspettiamo solidarietà in Europa, scioperi in alcune fabbriche, crollo storico della borsa, meno 17%, e bufera sulla Banca Centrale Europea che non convince. L'impegno delle Caritas, assistenza senza dimora e famiglie. Dopo l'invito, la CEI di Roma chiude le chiese. Sì, perché poi, detto e ripetuto tante volte nel corso di questi giorni, lo rifacciamo anche noi, lo rifaremo quotidianamente, la quarantena è dura per tutti stare chiusi e chiusi in casa, è ancora più dura per chi una casa non ce l'ha o per chi vive in situazioni precarie. Pensate che significa vivere, per dirne un esempio semplice che possono facilmente immaginare tutte e tutti, vivere in un campo rom fuori da un centro abitato, senza più neanche l'autobus che ti porta in un'ora, in mezz'ora, tre quarti d'ora almeno alla farmacia o al tuo medico di base. Ecco, immaginiamo un po' questo e vengono i brividi. E poi ci sono tanti commenti, però a dire il vero non aggiungono granché. Anche Avvenire, come ha fatto il manifesto, ne abbiamo dato notizia l'altro ieri, ha messo a disposizione gratuita la sua edizione digitale. E poi c'è lo scontro Trump-Unione Europea sul blocco dei voli. Qui più che scontro, diciamo, è Trump che ha attaccato nel tentativo poi di far vedere che si fa qualcosa quando negli Stati Uniti non si sta facendo nulla e i dati effettivi sui contagi e sui morti sono probabilmente molto molto peggiori rispetto a quelli ufficiali, perché semplicemente i controlli non si fanno, ma l'abbiamo detto tante volte. E poi lo sport che ora si ferma, dal calcio al NBA. Ecco, a proposito, diciamo, di capire quale sia la situazione effettiva negli Stati Uniti d'America, la NBA, la National Basketball Association, il torneo sportivo professionistico credo forse più ricco al mondo, una franchigia NBA credo che valga poco meno di $1 miliardo, il suo valore, diciamo, se uno se la vuole comprare deve sborsare quella cifra, ce ne sono 30, fate un po' i conti, che una società del genere abbia deciso di bloccare il campionato la dice lunga, ecco, su quale sia la situazione e quale potrebbe essere. Da Avvenire al Corriere della Sera, tensione sulle nuove regole, Conte difende il decreto, oltre 1000 vittime, più di 15.000 positivi, il governo prepara aiuti per economia e sanità, chiarezza e misure più dure, dicono le regioni. Se necessario faremo anche altre scelte coraggiose. In realtà, diciamo, in capo a una settimana, giovedì scorso, qui nella nostra città, per capirci, sono state chiuse le scuole, è stato tutto reso molto molto più duro e più serrato. Ecco, in forma intelligentemente, probabilmente, diciamo, graduale, ma a questo si è arrivati. E poi chi, anche qui tanti commenti, c'è Mario Monti, c'è Maurizio Ferrara, c'è Macron che adesso ha paura, scuole chiuse ora, scrive Stefano Montefiori. Dopo la carica dei puffi adesso arrivano le scuole chiuse, ma insomma ancora con molta timidezza, ecco. C'è Tom Hanks e la moglie che si sono ammalati, anche sono positivi, hanno fatto il test in Australia dove stavano lavorando, c'è la Merkel che adesso parla di crisi gravissima e poi c'è la Banca Centrale Europea, il Corriere della Sera decide scientemente ovviamente di dare il meno possibile spazio a questo epic fail, come usa dire adesso, in taglio basso. La Lagarde fa crollare i mercati, la presidente BCE poi si corregge, evitare shock finanziari, ma intanto i mercati crollano. L'Europa non ci ostacoli e sia solidale, dice il Colle, sia solidale o almeno non ci ostacoli. Su questo, sulle parole della Lagarde, interviene Federico Fubini con un retroscena, che si usa sempre questa terminologia un po' così, quelle parole suggerite da una collega tedesca, la frase di una sua collega tedesca, ma l'ha detta lei. Così Christine Lagarde ha vissuto la sua Caporetto, la presidente della Banca Centrale ha ammaccato la sua credibilità ieri alle 3. Poi continua a pagina 8, ma insomma il senso è questo. Ultima, prima pagina che abbiamo sotto mano, il Messaggero, Italia sola, Mattarella sferza l'Unione Europea, anche qui si dà ovviamente spazio alle parole del Presidente della Repubblica, sottolineandone, come dire, la gravità e anche la novità. La sortita della Lagarde manda a picco le borse, Milano fa meno 17%, lo spread schizza a 273, l'ira del Colle, l'Europa non ci ostacoli e sia solidale, Bruxelles sospenderà il patto di stabilità per il virus. Nostalgia di Draghi, scrive Osvaldo De Paolini, il grave errore di Francoforte fa male al paese. E poi c'è Paolo Balduzzi che parla di fabbriche aperte, il blocco a metà, fabbriche aperte, i troppi rischi che corriamo. Questo, diciamo, è un altro dei grandi temi del momento, ma insomma forse il più complicato. Quindi in un giorno 2249 contagiati in più, i morti salgono sopra quota 1000 e uno studio dice che in aprile si sarà fuori dal tunnel. Nel frattempo però ovviamente si allarga lo stato di necessità, nuove regole sia alla passeggiata, ma è caos di vieti. Anche qui si parla di norme fumose, controlli difficili, ma è pur vero che insomma in situazioni del genere tutto diciamo molto è lasciato a la saggezza e l'intelligenza delle e dei singoli, insomma, anche perché è l'unico modo per evitare la soluzione finale, in questo caso che è quella cinese, per cui tu stai a casa controllato via telefonino dalle forze di polizia che se esci ti beccano e se esci sotto casa. O così o lì, non è che c'è una terza via. Poi uno può fare anche lo spiritoso, come fanno alcuni giornali sulla fumosità di alcune norme, che però diciamo non possono essere meno fumose di tanto. Il succo è questo. Vedremo se si riuscirà a rimanere nei contorni di un'autoregolamentazione non troppo imposta oppure no, ma questo è un discorso e una tematica che ci porteremo avanti molto dopo anche la fine dell'epidemia. Infine c'è Trump. Niente voli con l'Europa, dagli USA aerei solo per Londra. Intanto Donald ha incontrato un infetto che è tal Fabio Weingarten, il capo della comunicazione del presidente brasiliano Bolsonaro, positivo al coronavirus. E infine una segnalazione per la Corea del Sud, l'epidemia fermata da Seoul, tamponi a tappeto e high tech, l'Italia studia il modello coreano.